Radio Popolare vi ha presentato La Caccia. Caccia, l'ideologico quotidiano. Una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Anche quest'anno la nostra stagione è conclusa. Ultima puntata della Caccia, questa. Ringraziamo tutti voi per la cortese attenzione e tutti gli amici che ci hanno suggerito tematiche da affrontare, non facendoci mancare il loro conforto. Grazie a Cristiano Valli per la regia. All'appuntamento può darsi, chi lo sa. Arrivederci a tutti comunque. Stagione. Grazie.